in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti, bentornati, spero, alla nostra rassegna stampa internazionale. La prima cosa che voglio fare, perché mi sono dimenticata di farla sabato scorso, è di segnalare il mio account Twitter, che è @Giulia_Crivelli, e ringrazio gli ascoltatori che magari mi mandano dei messaggi. Settimana scorsa uno in modo molto simpatico mi ha corretto sul fatto che anche il Piemonte ha sempre avuto in effetti una lunga tradizione nella coltivazione dello zafferano, mentre io avevo detto che era molto diffuso soltanto in Piemonte. Ma veniamo a oggi. E cominciamo da Vox Europe, che cita questo articolo uscito su euobserver.com. Su Vox Europe lo trovate tradotto. Io, sapete, sono una grande fan di questo sito perché ha anche, tra l'altro, traduzioni molto accurate. Alcune di queste vengono anche riprese, per esempio, poi da Internazionale. L'articolo che vi segnalo si intitola «Qualche lezione per la Germania dall'attacco contro Macron». E vi leggo la prima parte, poi lo trovate su www.voxeurope.eu. Il modo in cui la squadra di Macron, il nuovo presidente francese che si è insediato proprio pochi giorni fa, si è difeso contro gli hacker, contiene lezioni per altri partiti politici in Europa, anche se gli esperti non sono concordi sul fatto che sia stata la Russia. Un gruppo di hacker ha cercato di influenzare le elezioni presidenziali francesi del 7 maggio, cioè il primo turno, pubblicando migliaia di email rubate al team elettorale di Emmanuel Macron. L'8 maggio, parlando alla radio francese, il responsabile informatico di Macron, Mounir Majoubi, ha spiegato che gli hacker hanno rubato il contenuto di 5 email, incluse quella del capo tesoriere del team. Majoubi ha spiegato che presumibilmente l'attacco si è svolto con un'email inviata dal loro stesso ufficio stampa, il cui contenuto era «alcune raccomandazioni per quando parlate alla stampa, scarica questo file come allegato». Poi in realtà, appunto, anticipando quasi gli hacker, giocando di anticipo e pubblicando altre email, sono questi hacker che non si capisce, appunto, se siano davvero russi, perché ultimamente i russi vengono accusati di qualsiasi nefandezza informatica, sono stati un po' spiazzati, quindi anziché magari reagire dicendo, urlando allo scandalo, si può semplicemente, appunto, se non si ha niente di particolare da nascondere, naturalmente, si può reagire in questo modo. Passiamo invece a una notizia più curiosa, perché si è parlato molto, mi ha colpita perché si è parlato molto negli ultimi mesi della Corea del Nord, dei rapporti con il suo alleato storico che è la Cina, ma anche naturalmente con il nemico storico che è la Corea del Sud, e poi dei rapporti con il Giappone, con gli Stati Uniti. Ecco, la Süddeutsche Zeitung e anche due TV pubbliche tedesche, la NDR e la VDR, hanno dato questa notizia che la Corea del Nord deve 10 milioni di euro al fisco tedesco. Perché? Perché Pyongyang non ha pagato le tasse sugli introiti derivanti da un ostello e da un centro congressi che gestisce almeno dal 2004 sull'area della propria ambasciata a Berlino. E l'ostello da solo assicurerebbe alla Corea del Nord, pensate, 40.000 euro di entrate al mese. Ma la Corea del Nord, l'ambasciata, anche ha ignorato le notifiche fiscali tedesche. Credo che l'agenzia per la riscossione delle tasse tedesca sia probabilmente più rigida della nostra, o comunque abbia una storia più lunga di concreta lotta all'evasione fiscale, quindi non so come finirà per i coreani. A proposito di giornali tedeschi, e passando a temi che comunque coinvolgono molte persone, perché molti proprietari di auto, secondo la Frankfurter Allgemeine Zeitung, o meglio, la Frankfurter Allgemeine Zeitung riporta un'intervista del CEO di Volvo Cars, Håkan Samuelsson, svedese, che ha spiegato che l'azienda non intende sviluppare una nuova generazione ad alimentazione diesel, perché un po' perché costa molto e poi perché, come sappiamo, ci sono norme sempre più severe sul diesel. Questo è quindi Volvo, che fa capo, tra l'altro, non è più svedese sulla carta d'identità, ma poi in realtà appartiene a un gruppo cinese, il gruppo Geely, conta comunque di proseguire, ha spiegato in questa intervista a Samuelsson, lo sviluppo dell'ultima generazione di motori diesel, che però era stata introdotta nel 2013 per mettersi in regola con i nuovi standard europei. Sempre sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung invece c'è un articolo che riguarda noi, o noi italiani, o meglio, riguarda una via che non ha nulla di italiano nel nome, si chiama Via Krupp perché fu fatta costruire nel 1882, pagata e fatta costruire da Friedrich Alfred Krupp, che come dice il nome è tedesco, è una storica strada panoramica di Capri e secondo la Frankfurter Allgemeine Zeitung diventa sempre più probabile la privatizzazione di questa strada. E infatti in un lungo articolo il giornalista della FAZ von Bremer riporta appunto gli ultimi rumors. Questo è ai tedeschi, pare che i tedeschi adorano Capri e in generale adorano la campagna, potremmo dire adorano l'Italia, sicuramente almeno per turismo. Ma questa vicenda li colpisce probabilmente particolarmente perché questo fu proprio un regalo che Krupp fece a Capri, dove lui, che trascorreva lunghi periodi di vacanze, in particolare in quell'hotel che ancora oggi è uno dei più belli hotel dell'isola e forse d'Italia, che è il Quisisana, e sembrerebbe appunto un peccato che da un atto di liberalità adesso si debba passare a una privatizzazione. È chiaro che una strada come quella su un'isola come Capri richiede una manutenzione altissima, perciò è probabile che questa idea di privatizzarlo, magari di far pagare una sorta di ticket, e vedremo se poi succederà, serve anche appunto per assicurare che la strada non sia pericolosa, ma soprattutto si mantenga la sua bellezza originaria. Torniamo al tema tasse, perché anche di questo si è parlato molto. Sapete, oltre alla possibile introduzione della cosiddetta web tax per i giganti del web, che spesso incassano in paesi dove operano, ma pagano le tasse dove la holding ha sede, per esempio in Irlanda, dove le tasse per le aziende sono molto basse, ma si è parlato tanto anche dei nuovi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate e di tutte le riforme fiscali di cui l'Italia ha ancora bisogno, perché sappiamo che purtroppo l'evasione certificata continua a essere altissima. E allora, in tema di tasse, vi segnalo anche il Daily Mail e Le Figaro perché ci sarebbe un contenzioso da 100 milioni di sterline con una delle più importanti banche svizzere, la UBS, e il fisco britannico. UBS addirittura è, oltre a essere una delle più conosciute in termini di dimensioni, è la più grande banca elvetica e però opera poi in 50 paesi del mondo e avrebbe un contenzioso con la Revenue and Customs, che è un po' l'equivalente dell'Agenzia delle Entrate americana che si chiama IRS e della nostra Agenzia delle Entrate. Vedremo insomma se anche qui ci sono mastini, vedremo quanto mastini sarà l'Agenzia delle Entrate inglesi. Da internazionale invece, visto che abbiamo appena parlato della Svizzera, vi segnalo un articolo molto interessante, secondo me, tradotto da internazionale dalla rivista Folio Svizzera, che si intitola Tesoro di casa. Sempre più spesso, infatti, gli svizzeri preferiscono custodire da sé soldi e altri beni preziosi, invece di affidarli alle banche, al punto che la vendita di casseforti ha raggiunto livelli record. E ci sono anche delle foto molto belle perché poi bisogna capire dove piazzare queste cassaforti e tra l'altro diventano sempre più sofisticate perché comunque il numero di furti con scassi in Svizzera sta aumentando. Nel 2015 sono stati 42.400. Sempre grazie a Internazionale, vi segnalo un articolo invece pubblicato dal New York Times. Su quella riforma, uno dei più grandi successi dell'amministrazione degli 8 anni di presidenza Obama, quindi dei 2 mandati di Obama, che era la riforma sanitaria, cosiddetta Obamacare. Adesso non è chiaro con che cosa verrà rimpiazzata, è chiaro però che non sarà più quella che aveva voluto Obama e il Partito Democratico. E quindi il New York Times ci spiega questa che per molti europei continua a sembrare un'anomalia incredibile, cioè che le fasce più deboli della popolazione americana siano di fatto scoperte dal punto di vista dell'assistenza sanitaria. Il titolo dell'articolo è Una riforma sanitaria contro i pazienti, il riferimento naturalmente è ai possibili cambiamenti che verranno introdotti da Trump. scrive, vi leggo l'inizio dell'articolo, decine di migliaia di persone rischiano di perdere il diritto alle cure mediche se la legge voluta da Donald Trump dovesse essere approvata. E c'è uno schema che dà molto chiara l'idea del progresso che era stato fatto durante gli anni di Obama. Infatti nel 2008 la percentuale, nel 2009 la percentuale di americani senza assicurazione sanitaria era del 16,1%, percentuale scesa al 12% alla fine della presidenza Obama, e adesso chissà. Era però l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato e grazie per l'ascolto da Giulia Crivelli.